Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. La situazione è sotto controllo. Eseguo tutto ciò che il protocollo prevede, con scrupolosa attenzione. Verifico che tutto vada bene. Poi informo un ragazzo che lo porteremo in ospedale. Lui mi guarda, mi stringe la mano e poi mi dice: va bene, però tu vieni con me. Io gli rispondo che certo che vado con lui. Mi alzo e chiedo alle persone di spostarsi. Dico cosa fare e faccio le cose che vanno fatte. Mi sento calma. Calma come non sono mai stata. Mi chiamo Elena Camozzini, ho 46 anni, sono sposata, ho due figlie e lavoro da 26 anni quasi in ospedale. Il fatto è che noi più o meno usiamo le forze che ci servono dosandole, no? In base a quello che ci serve durante la giornata. Oggi, ad esempio, sono le 4 del pomeriggio e quindi voi probabilmente siete in macchina o magari siete al lavoro o magari siete a casa e avete finito quello che dovevate fare. Avete fatto una mattinata, ci avete messo dentro tutto quello che riuscivate, avete pranzato, poi avete ripreso. Magari siete solo a metà della vostra giornata invece, magari se lavorate di notte comincerete tra poco. Però comunque qualsiasi lavoro facciate e a qualsiasi punto della giornata voi siate, avete già dosato le vostre forze, in modo da arrivare alla fine della giornata e non averne consumate troppo, no? Poi ci sono magari giorni più difficili di altri, per cui dovete fare più cose di altri giorni, oppure dovete fare delle cose che non vi va di fare, incontrare il capo, andare a dire delle cose a delle persone che non vorreste dire, preferireste evitare di farlo. E lì magari avete bisogno di un po' più di forza e allora andate a cercare da qualche parte. Poi ogni tanto succedono delle cose inaspettate durante le nostre giornate, delle cose per cui serve una dose di forza, di intensità e di capacità che noi non pensiamo nemmeno di avere. Cioè, che non ci accorgiamo di avere, perché durante il giorno alle 4 del pomeriggio abbiamo già fatto delle cose, abbiamo diviso le nostre forze in base alla giornata e non ci viene nemmeno in mente che potremmo fare molto di più, semplicemente perché non abbiamo l'occasione, perché non c'è l'opportunità di farlo. Oggi si parla di quella cosa lì, di quella forza che è nascosta da qualche parte dentro di noi e che non viene fuori fino a che non la tiriamo fuori, fino a che non ci serve, fino a che a un certo punto della nostra vita o della nostra giornata abbiamo bisogno di andare a cercarla e in qualche modo lei arriva. 349-238-6666. Provate a pensarci un secondo. A che tipo di forza mi sto riferendo? Vi faccio un esempio. Antonella. Da ragazzina, un tale aveva provato ad aggredirmi e aveva una pistola, non so se vero o finta. Ma io non mi sono spaventata, l'ho guardato e quando mi ha detto di stare zitta, io ho cominciato a urlare, come una pazza. Mi ricordo ancora la sua faccia spaventata. Sono corsa via suonando tutti i campanelli del condominio e lui è scappato. Antonella 1, brutto ceffo 0. Questo l'ha scritto Antonella sul profilo Facebook del programma che è Matteo Caccia, io sono qui. C'è anche una mail però che è voi siete qui, @radio24.it. Perché oggi vi racconto la storia di Elena, che è una storia particolare ovviamente, perché non tutti fanno i volontari o hanno lavorato per la Croce Rossa o in un'ambulanza. Però in quelle occasioni, in occasioni come quelle viene fuori soprattutto che delle volte siamo spiazzati dalla stessa nostra capacità di fare cose che non saremmo mai sicuri di poter fare. Ho visto, poi ve ne racconto anche, ma ve ne ho già parlato credo l'anno scorso, comunque poi più tardi lo racconto meglio. C'è un film che è un documentario sui surfisti. Io non ho mai fatto surf in vita mia, quindi non so di cosa stia parlando. Il documentario però ti racconta, oltre a fare un excursus sulla storia del surf, intervista alcuni che il surf l'hanno fatto e lo continuano a fare. Si chiama Riding Giants questo film e il regista era uno che andava in skateboard e che infatti aveva girato anche un documentario sullo skateboard. Tant'è, a un certo punto viene intervistato un tizio che cavalca un'onda altissima, una cosa chiaramente pericolosissima in cui puoi rimanerci, eccetera eccetera, e questo tizio con grande serenità durante l'intervista dice: quando è arrivata quell'onda io mi sono accorto che era un'onda molto alta, che io non avevo mai cavalcato un'onda alta come quella, però mi sono detto, è una roba un po' americana ovviamente, però sono americani quindi prendetelo con le molle, io mi sono detto: vuoi sapere di che pezza sei fatto? Ok, è arrivato il momento di farlo. Magari non siete su un'onda in questo momento, però avete scoperto che avete un po' picchettino più di forza di quanto immaginavate. Oggi è il momento per raccontarlo. 349-238-6666. Ora però raccontiamo la storia di Elena. Mm. prima che qualcuno inventasse il 118, c'eravamo noi. Infermieri con una buona esperienza in terapia intensiva, ma in realtà con pochi strumenti. È un mestiere complicato, in cui metti tutta la tecnica che hai appreso e ci infili quel briciolo di umanità che riesci. È un mestiere, il nostro, in cui non sei mai al sicuro. Cioè, non sei mai certo che quello che sai fare, lo sai fare per davvero. È come se fossi sempre in prova. Succede quasi tutti i giorni. E la prima volta mi è successo molti anni fa. È una bella serata estiva, di quelle che senti quasi l'elettricità nell'aria. C'è quel clima che a 20 anni ti fa sentire che questa non sai perché, ma sarà una serata magica. Però questa sera ho il cuore in gola. Sono seduta su un'ambulanza che a sirene spiegate se ne infischia dei semafori rossi e degli stop. E io spero vivamente che gli altri automobilisti sentano la sirena. D'altra parte, nei film americani non si è mai visto un infermiere che dice all'autista all'ambulanza: per favore rallenta, controlla che tutti diano la precedenza. E poi, eccoci, siamo arrivati. Di quella sera lì mi è rimasto impresso il fatto che questo ragazzino non mi mollasse più la mano, proprio nonostante avessimo quasi la stessa età, era come se lui vedesse in me, non so, una mamma, che perché poi questo tipo di rapporto si ripresentava ogni volta anche magari con persone più anziane di me. Arriviamo sul luogo dell'incidente. Quando noi partiamo sappiamo subito di che problema si tratta. Il colore del codice indica il tasso di gravità dell'intervento. Però c'è sempre un momento, prima di aprire il portellone e di scendere, che non sai mai veramente quello che ti aspetta. Non sai cosa ti apparirà davanti agli occhi. Un respiro. Apro e sono fuori. A terra c'è un ragazzo. Avrà una manciata d'anni meno di me. La sua moto è lì accanto, distrutta. Scendo, le solite verifiche di rito, le solite domande. Seguire un protocollo aiuta quando hai una paura blu di sbagliare qualcosa e quando senti il peso della responsabilità che ti opprime. L'autista non ha una formazione sanitaria, per cui lui se ne sta alla larga e io sono lì, da sola, ad affrontare la situazione. E probabilmente sto dando un'immagine di sicurezza e di competenza perché i presenti mi guardano con rispetto e quel ragazzino ferito si attiene a tutte le mie indicazioni e mi guarda speranzoso. Ok, la situazione è sotto controllo. Eseguo tutto ciò che il protocollo prevede con scrupolosa attenzione. Verifico che tutto vada bene e poi informo il ragazzo che lo porteremo in ospedale. Lui mi guarda, mi stringe la mano e mi dice: va bene, però tu vieni con me. In quel momento lì quasi ti adottano, nel senso che a volte si confidano anche, cioè si fidano molto di te. Non ho mantenuto amicizie con nessuno a parte una persona, vabbè, che per occasioni ho rincontrato e che si è ricordata lei di me, e con questa persona, siccome è stata proprio un'occasione della vita in cui ci siamo rincontrati, abbiamo un ottimo rapporto di amicizia ancora adesso. Prima che io possa rispondergli, lui me lo chiede ancora: vieni con me, vero? Mi spunta un sorriso sulle labbra, cioè è un po' come se io potessi caricarlo sull'ambulanza e con una pacca sulla spalla dirgli: ok, è stato un piacere, alla prossima, poi girarmi e andarmene chissà dove. Certo che vengo con te, stai tranquillo. Mi alzo e chiedo alle persone di spostarsi. Io sono calma, mi sento calma come non lo sono mai stata. Dico cosa fare e faccio le cose che vanno fatte. Sento gli occhi del ragazzo che mi seguono dalla barella e percepisco che la mia forza adesso è la sua. Non posso avere cedimenti o inciampi. Ripartiamo e in 10 minuti siamo all'ospedale. Accompagno il ragazzo in barella al pronto soccorso e sto con lui in attesa che arrivino i medici. Lo shock è diminuito e ora lui è più lucido. Parliamo poco ma siamo vicini. Arriva un'infermiera, dice che è il suo turno. Lui mi stringe la mano e mi dice solo: grazie. Ecco, questa cosa mi ha intenerito allora e ha continuato a farlo poi. Ho capito che in quel momento io ero il suo punto di riferimento, ero la sua sicurezza. Storie simili ne ho vissute tante, anche a lieto fine. Molte a lieto fine, altre no. Uomini e donne che ho conosciuto per brevi istanti, ma per i quali io sono stata importante. Non li ho più rivisti, ed è giusto così. Ma i loro sguardi sono rimasti impigliati nel mio cuore e danno un senso a tutto. Ho pensato molte volte di cambiare lavoro, ma quando mi guardo dentro li rivedo tutti, come in uno splendido caleidoscopio coloratissimo. Il racconto di Elena non parla solo di un mestiere, parla di coraggio e di forza. Che è quella forza che probabilmente tutti hanno, ma pochi conoscono, perché per conoscerla bisogna mettersi alla prova. E credo che questo tipo di forza valga per lo stesso principio che vale per gli sport acrobatici. Voglio dire, ci sono sport che non hanno delle barriere d'ingresso particolarmente complicate, no? La corsa, ad esempio, il ciclismo, ma pure il calcio o il tennis. Cioè, tutti possono provare a farli. Poi magari non sono capaci e abbandonano, però non serve coraggio, non serve una particolare audacia per tirare due calci a un pallone o salire su una bici. Ecco, poi invece ci sono sport in cui è necessario avere una certa dose di impavidità. E penso proprio a tutti gli sport acrobatici, no? Quegli sport che quando li guardi magari dalla poltrona dici, ma io non sarei mai capace di farlo. E invece forse non è così. O meglio, non sempre. E non per tutti è così. Volteggiare sulle parallele, saltare con un'asta, ma anche arrampicarsi su pareti di montagna a picco sul vuoto, sono cose che non sapremo mai se siamo in grado di farle, finché non ci abbiamo provato. Non si può farlo da soli, ovviamente. Ci vuole un maestro, qualcuno che lo sappia fare, che ti insegni i gesti e che soprattutto ti dia sicurezza. Ecco, il resto però dipende solo da te. Da quanta voglia hai di andare a fondo nelle tue paure e nelle parti di te che non conosci. Perché alla fine, per fare un salto mortale e atterrare in piedi senza renderlo davvero mortale, è un'unica possibilità. Provare a farlo. Che nessuno andando in ufficio o mentre si aggira per i banchi del supermercato fa dei movimenti che si avvicinano minimamente a quelli utili a fare un salto mortale. Quindi nessuno, se non ci prova, sa che cosa significa fare quei movimenti. E ve lo dicevo prima, no, del film di cui parlavo, che si chiama Riding Giants, che è un documentario sulla storia del surf. A un certo punto, verso la fine, intervistano tra gli altri un altro tizio che negli anni 50 andava a fare surf con un gruppo di amici alla Hawaii. Era un periodo in cui il surf era appena nato e nessuno sapeva bene come funzionava. E nessuno soprattutto sapeva fino a che punto potesse spingersi un uomo su una tavola di legno. All'epoca le onde che cavalcavano erano alte più o meno 1-2 metri massimo. Finché quel tizio lì, il tizio intervistato, che è un signore di 60 anni, grosso, massiccio, racconta che un giorno, insieme agli altri, se ne stavano su uno scoglio in cima a una roccia a guardare onde di 5 metri che si frangevano sulla spiaggia. E tutti dicevano, boh, chissà come si fa a cavalcare onde così alte. A un giorno lui si alzò e disse, ok, io ci provo. Quelli erano dei pionieri, ovviamente. Oggi le tavole sono diverse e le onde che i surfisti cavalcano sono alte fino a 10-15 metri. Ma senza quei tizi che iniziarono ad alzare l'asticella, chissà dove sarebbero ora i confini di quello sport. Ecco cosa intendo quando parlo di zone di noi che non conosciamo, di livelli di forza sconosciuti che solo esplorandoli si riconoscono. Forse bisogna essere un po' pionieri delle proprie paure e anche delle proprie forze. Anche perché succede sempre una cosa strana. Succede che in alcune situazioni complicate, quelle in cui si ha a che fare con la paura, qualsiasi essa sia, scoprire una forza dentro di noi aiuta a farla scoprire alle persone che abbiamo intorno. Cioè, farsi vedere tranquilli tranquillizza. Fare percepire il coraggio incoraggia. Mostrare forza rende tutti più forti. Io penso che non sarei in grado di fare il medico su un'ambulanza. Credo che non sarei in grado nemmeno di guidarla un'ambulanza. Però non lo so, e quindi forse non lo posso dire. Il racconto di Elena però mi ha fatto capire che quella forza lì, in fondo, quando serve, viene fuori. (349) 238 6666. Vivevo in una casa isolata. Ero in casa con mio figlio piccolo, un suo amico e la sua mamma. Ho aspettato un ladro dietro la porta che stava scassinando armato di un coltello da cucina e l'ho bastonato con un mattarello. È finito all'ospedale, era un poveraccio. Al processo ho testimoniato a suo favore. E poi anch'io sulle ambulanze, per il servizio civile, la paura delle sirene spiegate e poi la sicurezza di un incosciente, solo perché portava una divisa. 349-238-6666. Io non so da dove arrivi quella sicurezza, se arriva da un'inconsapevolezza generale o dal portare una divisa. Quindi preferisco chiederla a Elena, che probabilmente lei lo sa. Pronto, Elena? Ciao, Matteo. Ciao, come stai? Bene, grazie. Grazie per essere qui. Già si sente dalla tua voce che sei una persona di grande tranquillità. Sì, insomma, si cerca di gestire l'ansia come si può. È una componente che non manca in un lavoro così. Senti, dimmi esattamente che cosa fai. Allora, io adesso non lavoro più in pronto soccorso, lavoro per il controllo infezioni ospedaliere. Però vabbè, ho pensato molte volte di cambiare totalmente, invece penso che non riuscirei a non lavorare in un ospedale e avere un contatto con i pazienti. Quindi tu, perdonami Elena, sei un'infermiera professionale? Sì, sì, sì. Da quanto lo sei? Da ormai 26 anni. Ah, quindi ti manca poco per la pensione, non mica tanto, no, insomma. Penso che mi mancherà ancora parecchio. Quanti anni hai, scusami, mi hai detto? Io ho 46 anni. Ma è la voce di una bambina però, Elena. Ah, grazie, almeno quella. Dove abiti, di dove sei? Abito a Calusco d'Adda, un paese vicino a Bergamo. Direi sull'Adda. Sì, sì, sì, proprio sull'Adda. Così, così a naso, eh? No, non mi sfugge niente, eh? Hai visto, Elena? In geografia, sì. Senti, per quanto tempo l'hai fatto invece di stare sulle ambulanze? Nel senso che il racconto risale a un periodo in cui tu eri volontaria, giusto? No, no, io ho lavorato per 4 anni in una rianimazione e facevamo le uscite per gli incidenti stradali. E poi ho lavorato 2 anni in pronto soccorso e lì, vabbè, si facevano le uscite un po' per tutte le chiamate. Di che anni stiamo parlando? Allora, stiamo parlando di 21 anni fa. Perché tu dici prima che esistesse il 118? Sì, adesso, prima era gestito in maniera diversa, cioè uscivamo noi infermieri con un autista che non aveva nessuna formazione e noi eravamo in collegamento via radio con il medico di pronto soccorso, quindi anche questa era comunque una sicurezza. E invece adesso gli autisti hanno una buona formazione come soccorritore, c'è il medico e l'infermiere che fanno solo il 118. Quindi... Certo, immagino. Senti Elena, visto che di tutti gli episodi che ti sono capitati, immagino, no? Facendolo di mestiere su un'ambulanza per 4 anni, hai detto, giusto? Più o meno facevi il... Ok. La cosa che mi colpisce sempre, perché appunto chiedo un episodio della vostra vita che vi racconti, tu hai scelto questo perché era il primo, perché quel ragazzo ti è rimasto impresso più degli altri o perché scoprire quella tua forza ti è rimasto più impresso delle altre volte? Guarda, quella forza lì la scopri ogni volta, nel senso che tu hai sempre l'ansia prima di agire perché non sai cosa trovi. Quando arrivi, se tu dietro hai comunque una formazione, hai una grossa esperienza, viene fuori, vai come col pilota automatico, nel senso che quando arrivi capisci cosa devi fare e fai, quindi l'ansia la gestisci facendo. Mi è rimasto impresso questo ragazzo perché... è stata la prima volta che una persona mi ha proprio preso la mano e mi ha detto: però tu vieni con me, tu lo senti, lo sentivo che le persone comunque si fidavano ed ero un punto di riferimento, però lui è stato l'unico che veramente l'ha verbalizzato, cioè mi ha detto: però vieni con me, come per dire guarda, ho proprio bisogno che tu mi stia vicino. Guarda Elena, tra l'altro devo dire, anche solo il tono della tua voce è talmente placido che io penso che nei prossimi giorni, dovessi mai vivere stati d'ansia, ti farò una telefonata, così. Se tu mi racconti anche solo che tempo fa a Gera d'Adda, no, come, dov'è che abiti? Calusco d'Adda. Calusco d'Adda. Tu hai dei figli, Elena? Sì, io ho 2 figlie grandi, una di 20 anni e una di quasi 17. Che donne fortunate. Che cosa fanno nella vita loro? Allora, Laura, che è la grande, studia ingegneria di architettura e invece la piccola, tra virgolette, perché è più alta di me, studia perito agrario. Questo dettaglio, Elena, è più piccola ma è più alta di me, rivela di te probabilmente molto di più di quanto si immaginasse. Mi ricordo un pochettino mia mamma. Elena, ti ringrazio tantissimo per il racconto e per la telefonata. Grazie. In bocca al lupo. Ciao, grazie. Voi siete qui. Le 16:34 minuti, voi siete qui, Radio 24. Elena era di una grande placidità, però non sapeva usare molto bene la posta elettronica, quanto ci è parso di capire, no, Viola, più o meno. E quindi non abbiamo la foto. E sul suo profilo Facebook ha solo, che cosa? Un'immagine di Mafalda, quindi tanto valeva raccontare la foto di Mafalda. E allora per oggi la evitiamo. Vi ricordo comunque che quello che vi chiediamo è, oltre a un racconto di una pagina semplice, che racconta un episodio della vostra vita, anche una vostra foto in cui ci siate voi, la vostra faccia, in modo che vi conosciamo meglio. Questa mattina insieme a Tiziano e a Stefano abbiamo letto, abbiamo fatto passare altri 100 racconti che ci avete mandato. Grazie che continuate a farlo, i racconti sono molto belli, alcuni sono bellissimi, altri belli. La scala è belli, molto belli, bellissimi. Poi ciascuno la lega un pochettino come vuole. Non credo che riusciremo a farli tutti, cioè non credo, sicuramente non riusciremo a farli tutti, perché se contiamo quante puntate da qui a saranno 200 puntate, 210, 220 puntate, e abbiamo già 400 di più, 500 racconti, quindi è chiaro che non riusciremo a farli tutti. Però chi lo sa, magari facciamo un archivio. Non sono venuta adesso così. Un museo. Facciamo un museo con tutti i racconti. E Viola Bottoni legge tutti i racconti. Facciamo, guarda, ce l'ho. Facciamo una maratona in cui Viola legge tutti i racconti. Meglio, facciamo una maratona in cui parte Viola e poi tutti gli ascoltatori leggono ciascuno il suo racconto e andiamo avanti tipo 24-48 ore. Una roba, sì, una roba che è a metà tra l'autocoscienza collettiva e una noia infinita proprio. Però Paolino mette delle buone musiche e quindi andiamo. Qua, vabbè, Treviglio saluta e onora Calusco d'Adda, credo che sia bergamasca. Ciao Matteo, sono Beppe da Milano. Anch'io sulle ambulanze per 6 anni. Prima svenivo alla sola vista del sangue. E poi questo è un bel messaggio di una persona che credo sia un pilota. Un giorno su un volo privato mi sono trovato in una turbolenza in landing, cioè che stava atterrando e ho trovato una turbolenza in atterraggio, con i passeggeri che piangevano e pregavano. Io ero molto più spaventato di loro. Li ho rassicurati, ho fatto atterrare l'aereo, mi sono appartato e ho pianto e tremato per mezz'ora. Da allora sono considerato un bravo pilota. In realtà ho solo avuto tanta fortuna e calma divina. Ma non dire così, forse ti sottovaluti. Sono andato a vedere qualche tempo fa l'intervista, sapete il pilota che ha fatto ammarare l'aereo a New York nell'Hudson? E a parte, se non l'avete fatto, andatevi a sentire su YouTube quello che si dicono con la torre di controllo, perché lui dice: ho un problema, abbiamo un motore che è andato. Poi dice: ho un problema, abbiamo due motori andati. E poi dice: dove atterro? Atterro alla guardia. No, non ce la faccio. Proviamo a vedere l'aeroporto New Jersey. No, non ce la faccio. Proviamo a vedere l'altro aeroporto. No, non ce la faccio. E cosa fai? Vado nell'Hudson. Eccolo lì, 349-238-6666. Ecco, è arrivato un altro messaggio che dice: Beppo, Matteo Caccia, ti rispondo con un piccolo aforisma. Io amo gli uomini che cadono, se non altro perché sono quelli che attraversano. A questo proposito voglio leggervi un piccolo pezzo di un libro, vi dico dopo il libro. Là in alto, mentre prende confidenza col suo nuovo territorio, il funambolo si sente solo. Se ne vedrà lungo la sagoma immobile, aggrappato con le mani alla passerella davanti a questo cavo orizzontale, sul quale non osa posare il piede. Si crederebbe che egli beva pigramente il sole del tramonto. Non è così. Egli sta prendendo tempo. Misura lo spazio, palpa il vuoto, soppesa le distanze. Assapora fremendo quella solitudine, perché sa che se ce la fa, sarà funambolo. Lui vuole allineare alla verticale dei suoi pensieri i suoi dubbi e i suoi timori, per issare fino a sé il coraggio che gli resta. Ma tutto ciò richiede troppo tempo. Il cavo guadagna terreno, il cielo diventa cupo. Ora un centinaio di metri lo separano dalla piattaforma di fronte. Il suolo non è più allo stesso livello di prima, è ancora più in basso. Dei gridi giungono dai boschi, la fine del giorno è prossima. Al culmine della disperazione, il funambolo impugna il bilanciere e sul punto di desistere, passo dopo passo, parte. È il suo primo successo. Resta là, per comprenderlo, con gli occhi posati su quella piattaforma tutta nuova, mentre l'oscurità corre rasoterra. Condivide con le cime degli alberi la luce che s'attarda più leggera dell'aria. Solo, sul filo. Si circonda di un'allegria aspra e selvaggia, compiendo traversate spensierate e prive di ordine nell'umidità della sera. Appende il bilanciere alla passerella, prima di prendere posto in cima al palo. In seno ha un frammento di spazio nero e ghiacciato, per accogliere senza angoscia la notte che viene. There's no need to run. I love you well. Il pezzo di quel libro è tratto appunto da questo romanzo, non è un romanzo, è proprio un trattato che si chiama Trattato di funambolismo ed è scritto dal più grande funambolo di tutti i tempi, che è Philippe T. Philippe T è quello, avrete visto sicuramente, ne avevo già parlato, del documentario Man on Wire, l'uomo che ha camminato tra le due torri gemelle appeso a un cavo, insomma, lungo un cavo negli anni 80, credo, 84 mi pare, e il film racconta tutta l'avventura per arrivare e il delirio di un uomo che arriva sulle torri gemelle di nascosto, lancia un cavo, poi ci cammina sopra. Tra l'altro leggevo adesso sulla sua biografia in quarta di copertina, ripeto, Trattato di funambolismo, è proprio un libro, se volete imparare a diventare dei funamboli è come un manuale, poi in realtà non parla solo di quello. È nato in Francia, ha scoperto la magia e la prestidigitazione, ma la cosa più interessante è che lui da ormai 30 anni vive a New York, dove lavora come artist in residence presso la cattedrale di St. John the Divine, la più grande chiesa gotica del mondo. Vorrei sapere che cosa fa Philippe T come artist in residence. 349 238 6666. Uno degli ultimi messaggi che sono arrivati: Yuri, lavoravo in un istituto di vigilanza, ero dentro uno stabilimento e controllavo porte e finestre. A un certo punto mi accorgo che due pastori tedeschi mi fissano e partono al galoppo con la chiara tentazione di sbranarmi. Scappare non posso perché il cancello è troppo lontano e loro sono troppo vicini. Decido di andargli incontro gridando come un matto. Loro rallentano, si mettono a camminare, si fermano e mi annusano i piedi. Grazie a Paolino Corleoni, a Tiziano Bonini, a Viola Bottoni e a Stefano D'Andrea. La storia di oggi era la storia di Elena, parlava di forze nascoste che non conosciamo. Quella di domani è la storia di Simone, parla di infanzia che sembra finire e non finisce. Per i bimbi fu un lampo trovarsi a raccogliere la legna per il falò dell'ultima notte. Di lì a poco, passato il tramonto, avrebbero cantato a squarciagola e dopo aver danzato intorno al fuoco, si sarebbero quietati per sorseggiare una cioccolata calda. E lei, Giulia, lo avrebbe allora sì baciato. Angiolino ne era certo. Voleva solo avere il modo di cambiarsi quei pantaloni, sì, di indossare jeans nuovi, al posto di quei vecchi calzoni di velluto verde così stretti intorno alle caviglie, che non amava poi così tanto. E anche Giulia aveva detto di avere in serbo una sorpresa da indossare.